In gran parte i temi della mia relazione si sovrapporranno a quelli di Dieper, quindi sarà anche interessante vedere eventuali punti di convergenza o di divergenza. Credo che il compito principale della storia dei concetti consista nel cogliere le ragioni dei mutamenti di significato dei concetti. È un problema complesso perché a volte il significato indica un processo già avvenuto, altre volte invece indica, come dire, un'idea prescrittiva. Soltanto in riferimento agli interessi, alle ideologie che essi esprimono e alle istituzioni entro le quali operano, permette di definire l'ambito nel quale si colloca un significato. Ciò appare particolarmente evidente nell'analisi del concetto di politica sociale. Credo che nel secondo 800 in Germania la trasformazione che investe il significato di questo concetto si possa riassumere nel processo di secolarizzazione dell'idea etica che ne era il fondamento. Ed è questo che io ho cercato di analizzare attraverso una costante tensione tra indagine nel campo della scienza, delle scienze più propriamente dovrebbe dire, e l'indagine nel campo della politica, nell'ambito della politica. Dopo la fondazione del Kaiserreich si sviluppò tra i nazionalekonomen tedeschi un acceso dibattito sul ruolo dello Stato in economia. Contro le posizioni dei liberisti, come già ricordato Dieper, sono note le posizioni di Schmoller, che intervenendo nel 1872 alla seduta inaugurale del Verein enunciò proprio la concezione portante di questa idea di politica sociale, cioè la concezione di uno Stato come potere posto al di sopra delle classi, capace di dare leggi e di guidare l'amministrazione con mano giusta, di abolire i privilegi e di elevare le classi inferiori. Ed ecco appunto l'affermazione chiave. Esso è, commenta Schmoller, il più grande istituto etico, Das Großartigste Sittliche Institut, per l'educazione del genere umano. Questa concezione si era attuata nella monarchia prussiana che aveva saputo realizzare l'emancipazione dei contadini e aveva avviato la prima legislazione sulle fabbriche. Appartiene al mondo cristiano germanico, afferma Schmoller, la ricerca di una conciliazione delle classi economiche sul fondamento di un'idea di eticità, usa proprio l'espressione Sittlichkeit, che alimenta tutta l'azione dello Stato e che spiritualizza, sono parole di Schmoller, le istituzioni. La monarchia e il Beamtentum hanno rappresentato storicamente quest'idea di Stato etico ed è ad essi che spetta ora il compito di avviare la risoluzione della questione sociale assumendo l'iniziativa di una grande legge di riforma e di una politica sociale che realizzi la giustizia nei rapporti umani. Molto chiaro, una concezione che si trova anche nelle tesi di Adolf Wagner, che concepisce l'economia politica come scienza etica se appunto si doveva risolvere la questione sociale. Questi autori individuano i contenuti della politica sociale, soprattutto in misure di protezione del lavoro, cioè nella legislazione di fabbrica, oltre che in misure di tipo assicurativo nei casi appunto di malattie, infortuni e vecchiaia. In realtà, durante l'epoca bismarckiana non si realizzò nulla di tutto questo progetto, cioè in misure di protezione del lavoro andarono deserte, cioè furono rifiutate dal sistema di potere di Bismarck. Questo potrebbe indurci molto a riflettere sul ruolo subordinato o strumentale che ebbe la scienza rispetto al sistema di potere creato da Bismarck. Il blocco politico degli interessi che Bismarck seppe infatti realizzare comprendeva anche la grande industria che era sfavorevole a una politica di protezione del lavoro, considerata un'ingerenza indebita nell'organizzazione del lavoro industriale. Come noto, venne invece realizzato soltanto un sistema di assicurazioni sociali. Fu solo nel periodo successivo a Bismarck che si verificò un progressivo superamento della concezione etica della politica sociale e una crescente attenzione per i problemi dell'organizzazione del lavoro e del processo produttivo. I due Erlesse del 4 febbraio 1890, emanati da Guglielmo II, rappresentarono indubbiamente una svolta nel campo della politica sociale, perché introdusse una politica di protezione del lavoro che Bismarck aveva sempre respinto. Nel secondo Erlass si legge che uno dei compiti del potere dello Stato è quello di regolare il tempo, la durata e il tipo di lavoro, in modo che siano garantiti la conservazione della salute, il principio della eticità, di nuovo Sittlichkeit, i bisogni economici del lavoratore e la sua richiesta di una uguaglianza nei diritti. Era un programma che sembrava inaugurare un nuovo corso, ma che di fatto servì a Guglielmo II solo per realizzare un mutamento della forma di governo, dal regime del cancelliere al governo personale del Kaiser, pur con tutte le riserve che questa categoria necessariamente implica, come ha mostrato Huber. La caduta di Bismarck fu salutata come l'avvio di una nuova politica sociale. Anche Alfred Weber scrisse che la politica sociale del Kaiser Guglielmo II fu il tentativo di condurre il movimento dei lavoratori tedeschi nell'alveo di una corrente nazionale, attraverso l'accettazione di una parte delle loro richieste e la contemporanea soppressione della politica repressiva nei confronti della socialdemocrazia. Il programma di Guglielmo II fu elaborato a von Berlepsch, che era membro del Verein für Sozialpolitik ed era stato poi nominato da Guglielmo II ministro del commercio al solo scopo di togliere questo incarico a Bismarck e limitarne così il potere politico. Tra i provvedimenti introdotti va ricordata soprattutto la novella al codice industriale che divenne legge il primo giugno 1891. Ecco, questa misura è proprio la prima che introduce misure di protezione del lavoro, divieto del lavoro festivo, proibizione del lavoro notturno delle donne e dell'attività lavorativa dei minori. Misure che von Berlepsch aveva elaborato assieme all'ex consigliere di Bismarck, Theodor von Lohmann, che ora appunto era suo consigliere, in stretto contatto con Gustav von Schmoller. Ecco, qui invece questo intreccio scienza politica appare fortissimo, appare appunto proprio formidabile. Gli industriali tedeschi opposero una forte resistenza a queste misure politiche e sociali, in particolar modo il Zentralverband Deutscher Industrielle, vicino ai Freie Konservativen, che aveva appoggiato l'introduzione delle assicurazioni sociali da parte di Bismarck e rifiutava ora decisamente le nuove misure di protezione del lavoro. Ed è qui che si verifica un significativo mutamento nelle concezioni della politica sociale. Scrivendo infatti nel 97, quando ormai il nuovo corso si era concluso, ed era in pieno svolgimento la politica repressiva che terminerà solo nel 1899 con il fallimento della Zuchthaus vor Lage, cioè del progetto del carcere, Alfred Weber invitava gli industriali tedeschi a cessare la loro opposizione, dimostrando che ovunque le misure di protezione del lavoro si erano risolte in un miglioramento della vita delle imprese. In particolar modo, Weber, analizzando la diminuzione dell'occupazione minorile nell'industria tessile, osservava che questo risultato, dovuto appunto all'introduzione della Gewerbeordnungsnovelle del 91, era avvenuto attraverso una sostituzione delle macchine al lavoro minorile, al lavoro cosiddetto ungelernte. Questo saggio è importante perché, in qualche modo, mostra proprio questo mutamento nella concezione sulla politica, della politica sociale. Essa cioè non è più l'azione dello Stato nei confronti del movimento dei lavoratori come componente della società civile da integrare nello Stato, bensì indaga attentamente gli effetti della politica sociale sull'organizzazione del lavoro e sul livello di produzione delle imprese, avviando un'analisi che sarà sempre più serrata sul rapporto tra politica sociale e politica economica. L'opposizione al nuovo corso della politica sociale però non proveniva solo dal mondo industriale, bensì anche dai settori governativi. In particolare il ministro prussiano delle finanze, Johannes von Mikkel, a partire dalle dimissioni von Caprivi nel 1994, mutò il suo atteggiamento liberale sulla questione sociale e si fece come noto promotore di quella Sammlungspolitik delle forze borghesi contro la socialdemocrazia. All'interno di questo progetto la politica sociale doveva trasformarsi da politica per i lavoratori in politica per il ceto medio. Così affermò anche Guglielmo II, del resto in uno scritto del luglio del 95 indirizzato a von Berlepsch. Una nuova politica sociale a favore del ceto medio doveva porsi a sostegno della Sammlungspolitik, la quale doveva unire la borghesia e il Bauerntum contro la forza lavoro influenzata dai socialisti. Questo mutamento nella composizione sociale della forza lavoro e negli orientamenti delle forze politiche trovò inevitabilmente un eco all'interno della riflessione scientifica. Intervenendo nel 97 ai lavori dell'ottavo congresso evangelico sociale, Gustav von Schmoller analizzò lucidamente la composizione e la crescita del nuovo ceto degli Angestellten. Questo personale amministrativo distribuito nello Stato e nei comuni si era accresciuto di circa 300.000 unità dall'82 al 95 e ammontava complessivamente all'epoca in cui Schmoller scriveva 600.000 componenti di quello che gli definiva il nuovo ceto medio in formazione. La sicurezza e il livello di reddito percepito fondano i tratti distintivi del nuovo ceto medio che Schmoller delinea con chiarezza. In esso i principi del servizio e dell'ubbidienza si coniugano con l'indipendenza del giudizio, del carattere e della condotta di vita. L'analisi condotta da Smoller sull'emergenza e sulla composizione del ceto medio gli induce infine a ritenere che in seno alla società tedesca vi siano forze etiche, sittliche Kräfte, di cui l'affermazione del ceto medio è appunto un'espressione, tali che impediscano che la nazione si divida in pochi ricchi e in molti proletari. E qui appunto un nuovo mutamento nell'ambito di questo concetto. L'analisi scientifica cioè fonda i contenuti di una politica sociale che dovrà porsi al servizio delle nuove forze etiche, cioè a favore del ceto medio. Proprio in questa direzione infatti si orientò la politica governativa che appoggiò le richieste avanzate dal settore impiegatizio per ottenere una tutela assicurativa che infatti culminarono nella introduzione della Versicherung Gesetzführungsgestellte del dicembre 1911 che appunto tutelava assicurativamente contro la vecchiaia e l'invalidità il ceto medio, il settore appunto impiegatizio. Ed era un provvedimento che mirava palesemente ad opporre il ceto impiegatizio alla classe operaia. Il fallimento della politica di protezione del lavoro avviata con il nuovo corso, la ripresa di una politica di tipo repressivo e l'emergenza di nuovi interessi in seno alla società spingono l'indagine scientifica a mettere in discussione il ruolo dello Stato e la concezione della politica tradizionale della politica sociale come intervento pubblico super partes, avviando quel tipo di riflessione che alimenterà poi il problema del giudizi di valore nel primo decennio del nuovo secolo. C'è soprattutto un importante saggio di Zombart che spiega molto bene questa trasformazione, un saggio apparso alla fine degli anni 90, dove Zombart critica la concezione prevalente, cioè quella tradizionale nell'ambito della politica sociale, ossia la convinzione che l'ideale della politica sociale non debba essere tratto dalla vita economica, ma da altre sfere, ossia dall'etica o dalla religione. In particolar modo Zombart, che apparteneva alla giovane generazione del Verein für Sozialpolitik, critica i nazionali economen di ispirazione e di orientamento etico, quindi Schmoller, Wagner e Gustav Kohn, però non risparmia neppure gli esponenti del cattolicesimo sociale, in particolar modo Georg von Hertling, che fondano l'idea di una politica sociale su un diritto naturale. Scrive von Hertling, il riconoscimento di un diritto fondato in natura, dato per sempre e sottratto ad ogni mutamento dello sviluppo sociale, è il fondamento di una politica sociale sicura e consapevole dei suoi fini. E questo diritto naturale è ius divinum, perché scaturisce dal piano della creazione divina. Zombart introduce proprio uno spostamento di metodo e di impostazione, che però non è solo un dibattito metodologico che sottende, bensì piuttosto proprio una diversa concezione politica. La proposta interpretativa di Zombart procede infatti dalla considerazione secondo cui i principi della politica sociale possono essere rintracciati all'interno dell'economia, senza che si renda necessario ricorrere ad ideali che le sono estranei. Qui è evidente l'influenza del marxismo su Zombart, che però approda stranamente a delle conclusioni opposte, vedremo come. All'interno dell'economia Zombart infatti individua nel progresso economico il principio ordinatore. La realtà è un flusso continuo dal quale emergono sempre nuove classi in una lotta incessante e commenta: una sana politica sociale deve porsi come scopo la subordinazione delle classi sociali al progresso economico. Non vi è armonia tra le classi, quindi l'ideale di una composizione armonica dei conflitti attraverso l'intervento politico-sociale dello Stato appartiene addirittura, secondo Zombart, ad una fase precapitalistica. La politica sociale deve essere invece politica di classe, ossia deve realizzare interventi specifici rispetto agli interessi delle diverse classi. Politica di classe al servizio però del progresso economico che si realizza nel sistema economico dove viene raggiunta la più alta produttività. E di qui discende l'inevitabile corollario, cioè la politica sociale deve essere funzionale alla politica economica, perché essa deve diventare l'insieme di quelle misure dalle quali scaturisce la più alta produttività di un determinato sistema economico. Borchiewicz lo critica dicendo che questa è una concezione del tutto inutilizzabile perché le misure di politica sociale sono specifiche e non mirano invece alla tutela di un sistema economico nel suo complesso, ma credo che in realtà per esempio questa critica di Borchiewicz non colga invece il senso politico della riflessione di Zombart. Non c'è dubbio infatti che la ricerca di una fondazione autonoma della politica sociale finisca con lo spingere Sombart addirittura verso posizioni che sono quelle del Manchesterton, cioè appunto del liberismo economico. Per esempio questa è la tesi di Pribram, dell'economista Pribram. Però quello che preme rilevare è il fatto che l'aver posto come scopo della politica sociale, concepita come politica che deve favorire il pieno dispiegarsi delle forze produttive, il progresso economico, che si realizza attraverso il libero confronto delle classi, rappresenta un'anticipazione della crisi dello Stato etico incapace di ricondurre ad unità la molteplicità delle forze e delle parti in lotta. Il saggio di Sombart certamente anticipa i temi di un dibattito che matura agli inizi del nuovo secolo, quando si è ormai conclusa la fase della politica repressiva e ha preso avvio la cosiddetta era di Posadowski dal 99 al 1907. Posadowski, che ricopriva la carica di staatssekretär agli interni, riprende gli orientamenti di von Berlepsch in campo assicurativo e nella politica di protezione del lavoro. Di Posadowski viene ricordata soprattutto una legge che viene considerata la più avanzata nel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, il Bergesetz del luglio 1905, perché sembra una legge a favore della classe operaia, in quanto appunto introduce commissioni operaie, quindi configurando l'ipotesi di quella cosiddetta fabbrica costituzionale, alle quali spettava tra l'altro il controllo del lavoro a cottimo. In realtà, ecco il punto, in realtà si trattava di leggi apparentemente a favore del movimento operaio, perché Posadowski, le cui posizioni erano vicine a quelle dei conservatori, mirava attraverso queste misure a separare politica sociale e questione costituzionale, cioè il problema rappresentato dal movimento dei lavoratori rispetto al sistema politico del Kaiserreich. La sua concezione era quella di una socialdemocrazia ostile alla monarchia, partito antimonarchico, e quindi mirava attraverso le sue misure di politica sociale a favorire soprattutto le christliche Gewerkschaften e i Gewerkvereine liberali di Hirsch Dunker. Questo parve molto chiaro in occasione di un dibattito importante che spaccò proprio i liberali, e soprattutto mi riferisco al disegno di legge sul riconoscimento dei sindacati che viene presentato nel 1905. Ammetteva la concessione della capacità giuridica solo per associazioni professionali che non perseguissero finalità politiche. Era un progetto che mirava a discriminare evidentemente i sindacati di ispirazione socialdemocratica e fu tuttavia respinto dal Reichstag. Su questo disegno di legge fallito di Posadowski intervenne Naumann nel 1907, che ha già ricordato Dipper. Era un esponente di spicco, Naumann, della giovane generazione del Verein. Lo considerava Posadowski un socialista di Stato che credeva troppo poco, cito testualmente, nella forza regolatrice della libertà, cioè nel libero confronto tra le associazioni degli interessi. Lo Stato promulga le leggi basandosi sulla sua autorità, dichiara Naumann, ma impedisce in questo modo che scaturisca un nuovo diritto attraverso il conflitto e la conclusione di accordi tra associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, cioè allude soprattutto alla nascita di un nuovo diritto del lavoro che era nella realtà delle cose che lo Stato, intervenendo dall'alto, di fatto coartava. Nel 1908 fu approvata invece una legge, il Vereinsgesetz, che certamente rappresentò un progresso in questa direzione, perché introduceva sicuramente un riconoscimento del diritto di associazione, sia pure con grossi limiti, perché ad esempio l'articolo 7 prescriveva che le riunioni delle associazioni dovessero svolgersi in lingua tedesca e quindi discriminava le associazioni appunto straniere, di lavoratori non tedeschi, intendo dire. E su questo punto ci fu una spaccatura, per esempio, tra Naumann e Brentano, ma Naumann, come del resto Weber, quindi liberale, approvarono ugualmente questa legge perché rappresentò sicuramente un progresso verso ciò che essi auspicavano, che era anche nelle aspettative di Sombart, cioè un progressivo riconoscimento politico del movimento dei lavoratori. Durante il periodo del Kaiserreich, il diritto di associazione non si affermò mai compiutamente, in quanto al manifestarsi della molteplicità delle forze sociali non corrispose il loro pieno riconoscimento politico. Il Vereinsgesetz, per esempio, fu praticamente un riconoscimento ancora incompiuto del diritto di associazione. Ma al tempo stesso l'affermazione della pluralità delle forze degli interessi non consentiva più che le loro relazioni fossero regolate dall'autorità dello Stato. E pertanto la monarchia e il Beamtentum non potevano più sostituirsi al diretto confronto tra le classi, né potevano pretendere di essere considerate le forze più adatte per il conseguimento di una progressiva uguaglianza tra le parti sociali. Proprio sul tema politica sociale e amministrazione interviene Weber, Alfred Weber, nel 1909, con un intervento dai toni assai simili a quelli usati dal fratello Max. Indubbiamente l'apparato burocratico, scrive Alfred Weber, è qualcosa di necessario, ma esso in qualche modo introduce una metafisica di Stato, che ha prodotto, dichiara, una religione, la quale induce fattori religiosi negli uomini, che li spingono a sottomettersi a un principio autoritario che assorbe facilmente la loro libera personalità. Ecco, proprio scrivendo qualche anno più tardi, vedrà la nuova questione sociale proprio in ciò, cioè nella necessità di salvaguardare la libera personalità dell'individuo di fronte a questo assorbimento da parte dell'apparato amministrativo. Sosterrà un programma riformatore che addirittura proponeva una sorta di Mitbestimmung nell'apparato pubblico. La burocrazia appare a Weber, ad Alfred Weber, in tutta la sua rilevanza costituzionale e materiale. Essa introduce e produce, infatti, dichiara, rapporti di dipendenza e di fedeltà di cui non si fa parola nella Costituzione e dunque, conseguenza, la politica sociale non può essere gestita da un apparato amministrativo che induce un assoggettamento passivo ed un'autentica, dichiara, Verdummung. Quindi Weber respinge questa identificazione di politica sociale e politica dell'amministrazione e coglie pienamente il rilievo costituzionale della questione sociale. Su questo punto in realtà poi la scienza non è uniforme, penso soprattutto alle tesi di Ignazi Astrov, che ponendosi invece nella linea di tradizione che da von Mohl, von Stein giunge appunto fino a lui, e scrive questo importante volume assai citato sul rapporto tra scienza dell'amministrazione e politica sociale, rivendicando all'amministrazione questo compito, ma non cogliendo più il rilievo costituzionale che aveva soprattutto, io penso in modo particolare, all'opera di Stein, cioè appunto il tentativo che sempre realizzò, portò avanti l'amministrazione, di creare un argine attraverso la politica sociale contro l'insorgenza della società civile rispetto allo Stato. Al contrario, Weber, Alfred Weber, contrappone la burocrazia intesa come manifestazione del potere politico e alla politica sociale che essa realizza, la concezione di una diversa politica sociale nella quale il diritto di coalizione e le commissioni operaie siano fondate sul pieno riconoscimento del movimento dei lavoratori, ossia su di una Gleichberechtigung di lavoro e capitale. Solo in ciò egli vede un valido rimedio al dominio esercitato dal Beamtentum. E qui giungiamo ad un'ulteriore trasformazione di questa nozione di politica sociale. Ossia, credo che non ci sia quasi autore della giovane generazione Ferrain, penso a Naumann, a Sombart, ai due Weber, a Tennis, che non leghi, come dire, il problema della politica sociale al problema della democrazia. Sombart dichiara che sono folli tutti i tentativi che mirano ad impedire l'affermazione politica dei grandi movimenti popolari, perché ciò significherebbe impedire la democratizzazione della Costituzione. Così la riflessione sul problema della politica sociale si lega sempre più, a partire dai primi anni del nuovo secolo, al problema della democrazia. La crescita di una società attraversata da una pluralità di forme associative, l'affermazione dei principi di nuovo diritto, in particolare il diritto del lavoro, e scaturisco penso soprattutto all'opera di Sinzheimer che nel 1908 pone i principi del nuovo contratto collettivo, i principi che scaturiscono dalle relazioni tra gli interessi organizzati non possono più darsi nel contesto della monarchia costituzionale e dell'apparato burocratico che ne realizza gli orientamenti politici, bensì solo nel quadro di una democrazia parlamentare. E così mi avvio alle conclusioni, mostrando come il dibattito sui giudizi di valore, ben lungi dall'essere una questione di puro metodo, al contrario esprime questi conflitti politici tra diverse concezioni della politica sociale, dello Stato, della democrazia. Aprendo nel 1901 i lavori del Verein der Sozialpolitik, Brentano discusse le differenti posizioni in seno all'associazione. I fondatori del Verein erano d'accordo sul fatto che i punti di vista etici dovessero dominare su quelli economici, per cui sollecitavano, come noto, l'intervento dello Stato laddove gli interessi economici prevalessero su quelli etici o politici. Al contrario, la giovane generazione credeva, come abbiamo visto, nel progresso tecnico-scientifico e nel riconoscimento politico del movimento dei lavoratori. Solo da ciò ci si poteva attendere una soluzione dei problemi sociali. L'economista Carl Pribram individua il momento di svolta di questo dibattito nella pubblicazione venuta nel 1904 del saggio di Max Weber dedicato all'oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale. I contenuti sono notissimi, quindi nel caso soffermarsi a lungo, ma quello che importa è appunto sottolineare la politicità di un dibattito solo apparentemente metodologico. Weber si rivolge soprattutto, come noto, contro la scuola storica dell'economia, la quale aveva cercato di elevare l'economia politica e dichiara la dignità di una scienza etica su di una base empirica. Al contrario, la scienza ritiene che siano precluse le trattazioni di questioni culturali di portata generale, per cui nell'analisi delle misure di politica sociale occorre sempre distinguere tra gli aspetti tecnici, ispezione di fabbrica, tribunali industriali, eccetera, e visioni del mondo che quelle misure necessariamente implicano. Sintetizza Weber, la disputa si svolge non soltanto, così come oggi volentieri si crede, tra interessi di classe, ma anche tra intuizioni del mondo. E di qui la logica conclusione e la sua concezione della politica sociale. La scienza sociale, intesa come l'ordinamento concettuale dei fatti, deve essere nettamente distinta dalla politica sociale concepita come rappresentazione degli ideali. E aggiungiamo rappresentazione di parte degli ideali, rappresentazione unilaterale degli ideali. Schmoller risponde, come noto, a queste critiche di Weber con la sua nota tesi, secondo la quale esistono anche giudizi di valore oggettivi e non soltanto soggettivi. E cosa sono questi giudizi di valore oggettivi? Giudizi di valore etici che si fondano su un concetto di bene fissato socialmente come regola media nel costume, nel diritto. Ossia i valori condivisi da un popolo in una determinata epoca. In sostanza la politica sociale è una conquista di un popolo intero, non è soltanto una conquista di una parte della nazione tedesca. Ecco. Posizioni che non potrebbero essere più lontane da quelle di Weber, che invece aveva proclamato che non si dà univocità nelle valutazioni e che gli ideali supremi che ci muovono nella maniera più potente si sono formati in tutte le età solo nella lotta con altri ideali che ad altri sono sacri, scrive, come a noi i nostri. Ma proprio il riconoscimento dell'uguale valore degli ideali equivaleva a delegittimare la pretesa dello Stato di rappresentare un interesse al di sopra, generale, al di sopra delle parti. La rottura definitiva maturò, come noto, in occasione del notissimo convegno di Vienna dal 27 al 29 settembre del 1909, dove viene discusso il problema della produttività in economia, ma che in realtà sottende proprio il problema della politica sociale e dello Stato. Filippovici, che apparteneva alla scuola viennese della Nazionale Economie, quindi era allievo di Menger, che aveva polemizzato, come noto, a suo tempo con Schmoller, qualcuno vede in questa ripresa un dibattito alcuni anni più tardi, proprio una coda di quel dibattito venuto negli anni 70. Difese l'ipotesi di una scienza valutativa, affermando che il concetto di produttività usciva dal campo dell'economia e entrava in quello dell'etica, perché a suo giudizio il concetto di produttività dipendeva da quello di benessere, ossia dal soddisfacimento di bisogni, la cui definizione appartiene all'ambito della cultura. Zombat e Weber criticano questo concetto, sono ormai alla conclusione, e Zombat in modo particolare definì il concetto di produttività solo in base alla relazione oggettiva tra costo del lavoro e quantità dei beni prodotti. Ecco, così abbiamo tracciato questo percorso e ne vediamo le conseguenze. Il risultato di questo dibattito fu la messa in discussione dell'etica come fondamento della politica sociale. L'indebolirsi della legittimazione etica pose sempre più la produttività come scopo dell'azione politico-sociale dello Stato. La secolarizzazione del concetto di politica sociale corrispose così pienamente alla crisi irreversibile dell'ordinamento monarchico costituzionale e alla fine dello Stato etico. Tesi che troviamo per esempio nelle opere di Leopold von Wiese o anche di Filippovich di lì a qualche anno, nella settima edizione dei suoi lineamenti di economia politica pubblicati nel 1914. Anch'io estendo la riflessione fino agli anni 20 come Dipper, che lì è la conclusione di questo percorso, Quindi appunto i 14 in questo caso non significa nulla, è appunto alcuni anni più tardi che avviene l'epilogo di questa lunga, trasformazione di un concetto e di una visione politica dello Stato, oltre che appunto delle relazioni tra le classi. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le tesi che ponevano la produttività come obiettivo della politica sociale servirono a sostenere le posizioni imprenditoriali nello scontro con i sindacati sul problema della durata della giornata lavorativa durante il periodo dell'inflazione, nel 1923. Fu allora che si manifestò quella che fu definita, come ha già ricordato Dipper, la crisi della politica sociale. In uno scritto del 22, Erkner dichiarò che una separazione della politica sociale dalla politica economica appariva sempre meno possibile e che una valida politica produttiva era la miglior politica sociale. La crisi politica sociale si concluse con la vittoria del fronte padronale, con la rottura della comunità del lavoro che si era costituita nel novembre del 1918, ma essa rappresentò qualcosa di più, ossia l'occasione nella quale la riflessione su questo concetto di politica sociale affrontò anche il problema del suo rapporto con la nuova forma di governo democratica che si era realizzata e che era succeduta alla fine dell'impero. Apparve allora evidente come la crisi dovesse essere ricondotta all'assenza di un fondamento unitario capace di superare le contraddizioni e di ricondurre le posizioni inconciliabili all'interno di una stabile forma Stato. La crisi della politica sociale rivelò così la crisi ben più profonda della democrazia. La crisi dello Stato etico le aveva infatti consegnato il problema della difficile ricerca dei principi costituzionali sui quali fondare la possibile esistenza della nuova contraddittoria realtà pluralistica. Vorrei dire, la politica sociale si realizza paradossalmente all'interno dello Stato forte, pur con le contraddizioni legate al rapporto governo-interessi-governo Reichstag. Durante l'epoca della democrazia, di fatto, non si realizza più questa capacità di decisione politica. Ecco, questa è un poco la sintesi finale.